Ciao Gigi, vorrei dedicare Elisir ad Ale, perché è grazie a te che ho conosciuto una persona speciale. Ale, ti voglio bene. Ale, sei speciale. Jessica, di Gigi D'Agostino è a vostra disposizione. Potete far sentire la vostra voce. Fatevi sentire. 333-64-67-662. Sono Roberto da Lucca. Vorrei mandare un bacionissimo a Marti, Matteo e Alessia, la mia meravigliosa famiglia. Ho fatto un sogno di quelli strani. Guardavo un cielo pieno di mani, mani che cercano di costruire un mondo nuovo che possa unire, mani che pensano, che vogliono dire che non sognavo nel mio dormire, ma che era un sogno di quelli strani che mi donava il mio domani. Gigi, grazie per avermi fatto compagnia durante i miei momenti più difficili. Ho lottato contro la morte ed ero in un letto di ospedale, ma la tua musica mi ha ridato la vita. Baci, Rosy da Parma. D'Agostino, una grande famiglia danzante. Gigi, sono Willy di Muggio. Dedica una canzone al mio grande amore Franca, anche se ci stiamo lasciando. Io la amo. Healing time is just one way, hanging on to yesterday, thinking what tomorrow's plan for me. Today, I know how to live my life, and I'm gonna do what I wish. Gonna make the world be my lonely. Thank you. ai giorni grigi. Poco, molto, molto. Scrivi a Gigi. Po. 3, 3, 3. 6, 4. 6, 7. 6, 6, 2. Mischia bene sti dischi, vai G. Poco, molto poco. Ma io so poco, ma penso tanto. Ma so poco, molto poco. Anzi, niente. L'uomo sapiente. Penso tanto, ma so poco, molto poco. Anzi, niente. L'uomo sapiente. Nello studio delle cause e nella successione dei fenomeni. Volevo dire a Dario che mi manca tanto. Nello studio delle cause e nella successione dei fenomeni. Nello studio delle cause e nella successione dei fenomeni. Dai. Cammino del Gigi D'Agostino.

Erburattino, Gigi D'Agostino. Vorrei dedicare Cambio Casa a tutti i miei amici lontani, perché possano capire che la voglia di tornare lì con loro è tanta. Tutto ciò che desidero è proprio cambiare di nuovo casa per vivere nel mio vero mondo. Da Gae agli amici di Calitri. Volevo dedicare l'Amour Toujours a mamma e papà, perché oggi compiono 33 anni di matrimonio. Siete due genitori fantastici. Grazie al vostro amore avete creato un piccolo mondo, regalando la vita a me, Alicia ed Enrica. Grazie di tutto l'amore che c'è. Vi voglio bene. Paolo da Chieti. I still believe in your eyes. There is no choice. And I'll fly with you. I'll fly with you. Volevo dire alla mia ragazza Carol che la amo veramente tanto. Roby di Favria. Il cammino di Gigi D'Agostino. Musica che unisce. Fermiamo quel minimo. Riprendiamo il cammino tra qualche minuto. Questo è il cammino di Gigi D'Agostino. Thank you.

abbraccio forte.